www.radio3pod.rai.it. Vuoi essere anche tu protagonista in TV? Invia entro l'8 dicembre un tuo filmato sul sito evospot.it. G3 Ferrari selezionerà i filmati più originali per la nuova campagna TV dell'etilometro tascabile Evo. Regolamento su evospot.it. Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. Tornando dalle visite, Cosimo vide su un ontano una fanciulla che non aveva visto prima. In due salti fu lì. Era una ragazza con occhi di bellissimo color pervinca e carnagione profumata. Reggeva un secchio. «Com'è che quando ho visto tutti non vi ho vista?» «Ero per acqua al pozzo» e sorrise. Dal secchio, un po' inclinato, cadde dell'acqua. Lui l'aiutò a reggerlo. «Voi dunque scendete dagli alberi?» «No, c'è un ritorto ciliegio che fa ombra al pozzo. Di là caliamo i secchi. Venite!» Camminarono per un ramo, scavalcando il muro d'una corte. Lei lo guidò nel passaggio sul ciliegio. Sotto era il pozzo. «Vedete, barone?» «Come sapete che sono un barone?» «Io so tutto», sorrise. «Le mie sorelle m'hanno subito informata della visita. Sono quelle del volano?» «Irena e Raimunda, appunto. Le figlie di Don Federico?» «Sì. E il vostro nome?» «Ursula. Voi andate sugli alberi, meglio d'ogni altro qui. Ci andavo da bambina. A Granada avevamo grandi alberi nel patio. Sapreste cogliere quella rosa? In cima un albero era fiorita, una rosa rampicante. Peccato, no? Bene, ve la coglierò io.» S'avviò. Tornò con la rosa. Ursula sorrise ed avanzò le mani. «Voglio appuntarla io stesso. Ditemi dove.» «Sul capo, grazie.» E accompagnò la mano di lui. «Ora ditemi, sapreste», Cosimo chiese, «raggiungere quel mandorlo?» «Come si fa?» rise. «Non so mica volare.» «Aspettate», e Cosimo tirò un laccio. «Se vi lasciate legare a questa corda, io vi scarrucolo di là.» «No, ho paura», ma rideva. «È il mio sistema, ci viaggio da anni, facendo tutto da solo.» «Mamma mia!» La trasportò di là. Poi venne lui. Era un mandorlo tenero e non vasto. Vi si stava vicini. Ursula era ancora ansante e rossa per quel volo. «Spaventata?» «No!» Ma le batteva il cuore. «La rosa non s'è persa», lui disse. E la toccò per aggiustarla. Così, stretti sull'albero, a ogni gesto s'andavano abbracciando. Disse lei. E lui per primo si baciarono. Così cominciò l'amore. Il ragazzo felice e sbalordito, lei felice e non sorpresa affatto. Alle ragazze nulla accade a caso. Era l'amore tanto atteso da Cosimo e adesso inaspettatamente giunto e così bello da non capire come mai lo si potesse immaginare bello prima. E della sua bellezza la cosa più nuova era l'essere così semplice. E al ragazzo in quel momento pare che debba sempre essere così. Fiorirono i peschi, i mandorli, i ciliegi. Cosimo e Ursula passavano insieme le giornate sugli alberi fioriti. La primavera colorava di gaiezza perfino la funerea vicinanza del parentado. Nella colonia degli esuli, mio fratello seppe subito rendersi utile, insegnando i vari modi di passare da un albero all'altro e incoraggiando quelle nobili famiglie a uscire dall'abituale compostezza per praticare un po' di movimento. Gettò anche dei ponti di corda che permettevano agli esuli più vecchi di scambiarsi delle visite. E così, in quasi un anno di permanenza tra gli spagnoli, dotò la colonia di molti attrezzi da lui inventati: serbatoi d'acqua, fornelli, sacchi di pelo per dormirci dentro. Il desiderio di far nuove invenzioni lo portava a secondare le usanze di quegli idalghi, anche quando non andavano d'accordo con le idee dei suoi autori preferiti. Così, vedendo il desiderio di quelle pie persone di confessarsi regolarmente, scavò dentro un tronco un confessionale, dentro il quale poteva entrare il magro Don Sulpicio e da una finestrella con tendina e grata ascoltare i loro peccati. La pura passione delle innovazioni tecniche, insomma, non bastava a salvarlo dall'ossequio alle norme vigenti. Ci volevano le idee. Cosimo scrisse al libraio Orbecche che da Ombrosa gli rimandasse per la posta oliva bassa i volumi arrivati nel frattempo, così poté far leggere a Ursula, Paolo e Virginia e la nuova Eloisa. Gli esuli tenevano spesso adunanze su una vasta quercia, parlamenti in cui stilavano lettere al sovrano. Queste lettere, in principio, dovevano essere sempre di indignata protesta e di minaccia, quasi degli ultimatum, Ma a un certo punto, dall'uno o dall'altro di loro, venivano proposte formule più blande, più rispettose, e così si finiva in una supplica in cui si prosternavano umilmente i piedi delle graziose maestà, implorandone il perdono. Allora s'alzava il conde. Tutti ammutolivano, e il conde, guardando in alto, cominciava a parlare a voce bassa e vibrata, e diceva tutto quello che aveva in cuore. Quando si risiedeva, gli altri restavano seri e muti. Nessuno accennava più alla supplica. Cosimo ormai faceva parte della comunità e prendeva parte ai parlamenti. E là, con ingenuo fervore giovanile, spiegava le idee dei filosofi e i torti dei sovrani e come gli stati potevano essere retti secondo ragione e giustizia. Ma tra tutti, i soli che potevano dargli ascolto erano il conde, che per quanto vecchio s'arrovellava sempre alla ricerca d'un modo di capire e reagire, Ursula, che aveva letto qualche libro, e un paio di ragazze un po' più sveglie delle altre. Il resto della colonia erano teste di suola da piantarci dentro i chiodi. Insomma, questo conde, dai e dai, invece di star sempre a contemplare il paesaggio, cominciò a volersi leggere dei libri. Rousseau gli riuscì un po' ostico. Montesquieu invece gli piaceva, era già un passo. Gli altri dalghi, niente. Sebbene qualcuno, di nascosto da padre Sulpicio, chiedesse a Cosimo in prestito la pulzella per andarsi a leggere le pagine spinte. Così, col conde che macinava nuove idee, le adunanze sulla quercia presero un'altra piega. Ormai si parlava d'andare in Spagna a far la rivoluzione. Padre Sulpicio da principio non fiutò il pericolo. Lui di suo non era molto fino e, tagliato fuori da tutta la gerarchia dei superiori, non era più aggiornato sui veleni delle coscienze. Ma appena poté riordinare le idee, o appena, dicono altri, ricevette certe lettere coi sigilli vescovili, cominciò a dire che il demonio s'era intrufolato in quella loro comunità e che c'era da aspettarsi una pioggia di fulmini che incenerisse gli alberi con tutti loro sopra. Una notte Cosimo fu svegliato da un lamento. Accorse con una lanterna e sull'olmo del conde vide il vecchio già legato al tronco e il gesuita che stringeva i nodi. «Alto là, padre, cos'è questo?» «Il braccio della Santa Inquisizione, figlio. Ora tocca a questo sciagurato vecchio perché confessi l'eresia e sputi il demonio. Poi ce ne sarà per te!» Cosimo trasse la spada e recise le corde. «Guardi a voi, padre. Ci sono anche altre braccia che servono la ragione e la giustizia.» Il gesuita dal mantello trasse una spada sguainata. «Barone di Rondò, la vostra famiglia già da tempo ha un conto in sospeso col mio ordine.» «Aveva ragione mio padre buon'anima!» esclamò Cosimo incrociando il ferro. «La compagnia non perdona!» Si batterono in bilico sui rami. Don Sulpicio era uno schermidore eccellente e più volte mio fratello si trovò a mal partito. Erano al terzo assalto quando il conde, riavutosi, si mise a gridare. Si svegliarono gli altri esuli, accorsero, si interposero tra i duellanti. Sulpicio fece subito sparire la sua spada e, come se niente fosse, si mise a raccomandare la calma. Mettere a tacere un fatto così grave sarebbe stato impensabile in qualsiasi altra comunità, non in quella, con la voglia che avevano di ridurre al minimo tutti i pensieri che s'affacciavano alle loro teste. Così Don Federico mise i suoi buoni uffici e si venne a una specie di conciliazione tra Don Sulpicio e il conde, che lasciava tutto come prima. Cosimo certamente doveva diffidare e, quando andava per gli alberi con Ursula, temeva sempre di vedersi spiato dal gesuita. Sapeva che egli andava mettendo pulci nelle orecchie di Don Federico perché non lasciasse più uscire la ragazza con lui. Quelle nobili famiglie, in verità, erano educate a costumi molto chiusi, ma là s'era sugli alberi, in esilio, non si badava più a tante cose. Cosimo sembrava loro un bravo giovane, titolato, e sapeva rendersi utile, restava là con loro senza che nessuno gliel'avesse imposto. E se anche capivano che tra lui e Ursula doveva esserci del tenero e li vedevano allontanarsi spesso per i frutteti a cercar fiori e frutta, chiudevano un occhio per non trovarci nulla da ridire. Adesso però, con Don Sulpicio che metteva male, Don Federico non poté più far finta di non sapere niente. Chiamò Cosimo a colloquio sul suo platano. Al suo fianco era Sulpicio, lungo e nero. «Baron, ti si vede spesso con la mia nigna, mi si dice. Mi insegna a eblar vuestro idioma, altezza. Quanti anni hai?» «Vado per i 19. Joven, troppo giovane. Mia figlia è una ragazza da marito. Perché t'accompagni a lei?» «Ursula ha 17 anni. Pensi già a casarte? A cosa?» «Ti insegna male il castellano, mia figlia, ombre. Dico se pensi a sceglierti una novia, a costruirti una casa.» Sulpicio e Cosimo insieme fecero un gesto come a mettere le mani avanti. Il discorso prendeva una certa piega che non era quella voluta dal gesuita e tantomeno da mio fratello. «La mia casa», disse Cosimo e accennò intorno verso i rami più alti, le nuvole. «La mia casa è dappertutto, dappertutto dove posso salire, andando in su.» «No es esto», Il principe Federico Alonso scosse il capo. «Baron, se vuoi venire a Granada quando torneremo, vedrai il più ricco feudo della Sierra, mejor que aquí!» Don Sulpicio non poteva più star zitto. «Ma Altezza, questo giovane è un volteriano, non deve frequentare più sua figlia!» «Oh, es joven, le idee vanno e vengono, che se case, che si sposi e poi gli passerà. Venga a Granada, venga!» «Muchas gracias a usted, ci penserò!» E Cosimo, girando per le mani il berretto di pel di gatto, si ritirò con molti inchini. Quando rivide Ursula, era sovrappensiero. «Sai, Ursula, m'ha parlato tuo padre, m'ha fatto certi discorsi.» Ursula si spaventò. «Non vuole che ci vediamo più?» «Non è questo, vorrebbe che io, quando non sarete più esiliati, venga con voi a Granada.» «Ah sì, che bello! Ma, vedi, io ti voglio bene, ma sono stato sempre sugli alberi e voglio rimanerci.» «Oh, Cosme, abbiamo degli alberi anche là, da noi.» «Sì, ma intanto per fare il viaggio con voi dovrei scendere e una volta sceso...» «Non ti preoccupare, Cosme, tanto ora siamo esuli e forse lo resteremo per tutta la vita.» E mio fratello non si diede più pena. Ma Ursula non aveva previsto giusto. Dopo poco arrivò a Don Federico una lettera coi sigilli reali spagnoli. Il bando, per grazioso indulto di Sua Maestà Cattolica, era revocato. I nobili esiliati potevano tornare alle proprie case e ai propri averi. Subito ci fu un gran brulichio su per i platani. Si ritorna, Madrid, Cadiz, Siviglia!» Corse voce in città, gli olivabassi arrivarono con scala a pioli, degli esuli chi scendeva festeggiato dal popolo, chi radunava i bagagli. «Ma non è finita!» esclamava il conde. «Ci sentiranno le Cortés e la corona!» E poiché dei suoi compagni d'esilio in quel momento nessuno mostrava di volergli dar retta e già le dame erano preoccupate per i loro vestiti non più alla moda, per il guardaroba da rinnovare, egli si mise a fare grandi discorsi alla popolazione olivabassa. «Ora andiamo in Spagna e vedrete, là faremo i conti, io e questo giovane faremo giustizia!» E indicava Cosimo. E Cosimo, confuso, a far cenno di no. Don Federico, trasportato a braccia, era disceso a terra. «Baja, joven bizarro!» gridò a Cosimo. «Giovane valoroso, scendi! Vieni con noi a Granada!» Cosimo, rannicchiato sul ramo, si schermiva. E il principe: «Come no? Sarai come mio figlio!» «L'esilio è finito!» diceva il conde. «Finalmente possiamo mettere in opera quel che abbiamo per tanto tempo meditato! Cosa resti a fare sugli alberi, barone? Non c'è più motivo!» Cosimo allargò le braccia. «Io sono salito quassù prima di voi, signori, e ci resterò anche dopo.» «Vuoi ritirarti?» gridò il conde. «No, resistere!» rispose il barone. Ursula, che era scesa tra i primi e con le sorelle s'affaccendava a stipare una carrozza dei loro bagagli, si precipitò verso l'albero. «Allora resto con te!» e corse per la scala. La fermarono in 4 o 5, la strapparono di lì, tolsero le scale dagli alberi. «Adios, Ursula! Sii felice!» disse Cosimo, mentre la trasportavano di forza nella carrozza che partiva. Scoppiò un abbaio festoso. Il bassotto Ottimo Massimo, che per tutto il tempo in cui il suo padrone era rimasto a Olivabassa aveva dimostrato una ringhiosa scontentezza, forse inasprita dalle continue liti con i gatti degli spagnoli, ora pareva ritornare felice. Si mise a dar la caccia, ma come per gioco, ai pochi gatti superstiti, dimenticati sugli alberi, che rizzavano il pelo e soffiavano contro di lui. Chi a cavallo, chi in carrozza, chi in berlina, gli esuli partirono. La strada si sgombrò. Solo, sugli alberi di Olivabassa rimase mio fratello. Impigliati ai rami c'erano ancora qualche piuma, qualche nastro o merletto che si agitavano al vento, e un guanto, un parasole con latrina, un ventaglio, uno stivale con sperone. Era un'estate tutta lune piene, gracchi di rane, fischi di fringuelli, quella in cui il barone tornò a essere visto a Ombrosa. Pareva in preda a un'irrequietudine da uccello, saltava di ramo in ramo, ficcanaso, ombroso, inconcludente. Presto cominciò a correre voce che una certa Checchina di là dalla valle fosse la sua amante. Certo, questa ragazza stava in una casa solitaria, con una zia sorda, e un braccio d'ulivo le passava vicino alla finestra. Gli sfaccendati in piazza discutevano se lo era o non lo era. «Li ho visti, lei al davanzale, lui sul ramo. Lui si sbracciava come un pipistrello e lei rideva.» «A una certa ora lui fa il salto.» «Ma che? Si è giurato di non scendere dagli alberi in vita sua.» «Beh, lui, se ha stabilito la regola, può stabilire anche le eccezioni.» «Se si comincia con le eccezioni.» «Ma no, vi dico, è lei che salta dalla finestra sull'ulivo.» «E come fanno? Staranno ben scomodi.» «Io dico che non si sono mai toccati. Sì, lui la corteggia, oppure è lei che la desca, ma lui di lassù non scende. Sì, no, lui, lei, il davanzale, il salto, il ramo, non finivano più le discussioni. I fidanzati e i mariti adesso, guai se le loro morose o mogli alzavano gli occhi verso un albero. Le donne dal canto loro, appena si incontravano, ci, di chi parlavano? Di lui. Checchino o non checchina, le sue tresche mio fratello le aveva senza mai scendere dagli alberi. L'ho incontrato una volta che correva per i rami con a tracolla un materasso, con la stessa naturalezza con cui lo vedevamo portare a tracolla fucili, funi, accette, bisacce, borracce e fiaschette della polvere. Una certa Dorotea, donna galante, ebbe a confessarmi d'essersi incontrata con lui di propria iniziativa e non per lucro, ma per farsene un'idea. E che idea te ne sei fatta? Son contenta. Un'altra, tale Zobeida, mi raccontò d'essersi sognata l'uomo rampicante, lo chiamava così, e questo sogno era così informato e minuzioso che credo l'avesse invece vissuto veramente. Certo, io non so come vadano queste storie, ma Cosimo sulle donne doveva avere un certo fascino. Da quando era stato con quegli spagnoli, aveva preso a avere più cura della sua persona e aveva smesso di girare infagottato di pelo come un orso. Portava calzoni e marsina attillata e cappello a tuba all'inglese e si radeva la barba e acconciava la parrucca. Anzi, ormai si poteva giurare, da com'era vestito, se stava andando a caccia o a un convegno galante. Fatto sta che una matura nobildonna, che non dico, qui d'ombrosa, vivono ancora le figlie e i nipoti e potrebbero offendersi, ma a quel tempo era una storia risaputa, viaggiava sempre in carrozza, sola, col vecchio cocchiere a cassetta, e si faceva portare per quel tratto della strada maestra che passa nel bosco. A un certo punto diceva «Giovita» al cocchiere, «il bosco pullula di funghi, su via, colmatene questo canestrello e poi tornate». E gli dava una corba. Il pover'uomo, coi suoi reumi, sceso di cassetta, si caricava la corba sulle spalle, usciva di strada e prendeva a farsi largo tra le felci nella guazza e si inoltrava in mezzo ai faggi, chinandosi a frugare sotto ogni foglia per scovare un porcino od una vescia. Intanto dalla carrozza la nobildonna scompariva, come venisse rapita in cielo, su per fitte fronde che sovrastavano la strada. Non si sa altro, tranne che più volte a chi passava di là accadde di vedere la carrozza ferma e vuota nel bosco. Poi, misteriosamente, come era scomparsa, riecco la nobildonna seduta nella carrozza che guardava languida. Ritornava Giovita, inzaccherato, con pochi funghi raggranellati nella corba, e si ripartiva. Di queste storie se ne raccontavano molte, specialmente in casa di certe madame genovesi che tenevano riunioni per uomini abbienti. Le frequentavo anch'io quando ero scapolo. E così a queste cinque signore deve essere venuta voglia d'andare a far visita al barone. Difatti si dice d'una quercia che si chiama ancora la quercia delle cinque passere, e noi vecchi sappiamo quello che vuol dire. Fu un certo Gè, mercante di Zibibbo, a raccontarlo, uomo cui si può dar credito. Era una bella giornata di sole, questo Gè andava a caccia nel bosco. Arriva a quella quercia e cosa vede? Se le era portate tutte e cinque sui rami, Cosimo, una qua e una là. E si godevano il tepore, tutte nude, con gli ombrellini aperti per non farsi scottare dal sole, e il barone era là in mezzo che leggeva versi latini. Non riuscì a capire se d'Ovidio o di Lucrezio. Tante se ne raccontavano, e cosa ci sia di vero non lo so. A quel tempo lui su queste cose era riservato e pudico. Da vecchio, invece, raccontava fin troppo, ma per lo più storie che non stavano né in cielo né in terra, e che non ci si raccapezzava neanche lui. Fatto sta che a quel tempo cominciò l'usanza che quando una ragazza si ingrossava e non si sapeva chi era stato, veniva comodo di dare a lui la colpa. Una ragazza una volta raccontò che andava raccogliendo olive e s'era sentita sollevare da due braccia lunghe come d'una scimmia. Di lì a poco scaricò due gemelli. Ombrosa si riempì di bastardi del barone, veri o falsi che fossero. Ora sono cresciuti e qualcuno, è vero, gli somiglia. Ma potrebbe essere anche stata una suggestione, perché le donne incinte, a vedere Cosimo saltare tutto un tratto da un ramo all'altro, certe volte restavano turbate. Ma io in genere a queste storie raccontate per spiegare i parti non ci credo. Non so se ebbe tante donne come dicono, ma è certo che quelle che l'avevano conosciuto davvero preferivano star zitte. E poi, se aveva tante donne appresso, non si spiegherebbero le notti di luna quando egli girava come un gatto per gli alberi di fico, i susini, i melograni attorno all'abitato, in quella zona d'orti cui sovrasta la cerchia esterna delle case d'ombrosa, e si lamentava, lanciava certe specie di sospiri o sbadigli o gemiti, che per quanto lui volesse controllare, rendere manifestazioni tollerabili, usuali, gli uscivano invece dalla gola come degli ululati o gnaulii. E gli ombrosotti, che ormai lo sapevano, colti nel sonno, non si spaventavano neppure. Si giravano nelle lenzuola e dicevano: «C'è il barone che cerca la femmina, speriamo trovi e ci lasci dormire». Alle volte, qualche vecchio di quelli che patiscono l'insonnia e vanno volentieri alla finestra se sentono un rumore, s'affacciava a guardare nell'ortaglia e vedeva l'ombra di Cosimo tra quella dei rami del fico, proiettata in terra dalla luna. «Non riesce a prendere sonno stanotte, signoria?» «No, è tanto che mi rigiro e sono sempre sveglio», diceva Cosimo, come se parlasse stando a letto, col viso sprofondato nel guanciale, non aspettando che di sentirsi calare le palpebre, mentre era invece sospeso là come un acrobata. «Non so cosa c'è stasera, un caldo, un nervoso. Forse il tempo va a cambiare, non sentite anche voi?» Sento, ma io sono vecchio, signoria. E voi invece avete sangue che tira. Già, tira. Beh, vedete se vi tira un po' più lontano di qua, signor barone, che qua tanto non c'è niente che possa darvi sollievo, solo povere famiglie che si svegliano all'alba e che adesso vogliono dormire». Cosimo non rispondeva, sfrondava via per altri orti. Seppe sempre tenersi nei giusti limiti e d'altra parte gli ombrosotti seppero sempre tollerare queste sue stranezze, un po' perché egli era pur sempre il barone e un po' perché era un barone differente dagli altri. Certe volte queste note ferine che gli uscivano dal petto trovavano altre finestre, più curiose da ascoltarle. Bastava il segno dell'accendersi d'una candela, d'un mormorio di risa vellutate, di parole femminili tra la luce e l'ombra, che non si arrivava a capire, ma certo erano di scherzo su di lui, o per fargli il verso, o fingere di chiamarlo, ed era già un far sul serio, era già amore, per quel derelitto che saltava sui rami come un lugaro. Ecco, ora una più sfrontata si faceva alla finestra, come per veder cos'era. Ancora calda di letto, il seno scoperto, i capelli sciolti, il riso bianco nelle forti labbra schiuse, e si svolgevano dei dialoghi. «Chi c'è? Un gatto?» E lui: È uomo. «Un uomo che miagola?» Sospiro. «Perché? Cosa ti manca?» «Mi manca quel che hai tu». «Che cosa?» «Vieni qui e te lo dico». Mai ebbe sgarbi dagli uomini o vendette, dicevo, segno mi pare che non costituiva questo gran pericolo. Solo una volta, misteriosamente, fu ferito. Si sparse la notizia un mattino. Il cerusico d'Ombrosa dovette arrampicarsi sul noce dove egli stava lamentandosi. Aveva una gamba piena di pallini da fucile, di quelli piccoli da passeri. Bisognò cavarli uno per uno con la pinza. Gli fece male, ma presto guarì. Non si seppe mai bene come fosse andata. Lui disse che gli era partito un colpo, inavvertitamente, scavalcando un ramo. Convalescente, immobile sul noce, si ritemprava nei suoi studi più severi. Cominciò in quel tempo a scrivere un progetto di costituzione d'uno stato ideale fondato sopra gli alberi, in cui descriveva l'immaginaria repubblica d'arborea, abitata da uomini giusti. Lo cominciò come un trattato sulle leggi e i governi. Ma scrivendo, la sua inclinazione di inventore di storie complicate ebbe il sopravvento e ne uscì uno zibaldone d'avventure, duelli e storie erotiche, inserite quest'ultime in un capitolo sul diritto matrimoniale. L'epilogo del libro avrebbe dovuto essere questo: l'autore, fondato lo stato perfetto in cima agli alberi e convinta tutta l'umanità a stabilirvisi e a vivere felice, scendeva ad abitare sulla terra rimasta deserta. Avrebbe dovuto essere, ma l'opera restò incompiuta. Ne mandò un riassunto al Diderot firmando semplicemente Cosimo Rondò, lettore dell'enciclopedia. Il Diderot ringraziò con un biglietto. Manuela Mandracchia ha letto Il barone rampante di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Carlo Cursi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. ilterzoanello@rai.it L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.